gente cammina bella dritta a testa bassa, se ne torna a casa con le mani in tasca. Scende il buio nelle strade del centro, se ne va a coprire i crateri al cemento. In tutta la città c'è un solo bar aperto, dentro c'è Rimbaud, ubriaco perso. Annega nell'assenzio la sua nostalgia, causata dal rogo dei libri di poesia. Dei libri di poesia. In una tranquilla notte di regime, in una tranquilla notte di regime, in una tranquilla notte di regime. So shubi dubi. Al ministero dell'amore hanno appena cominciato con Socrate sfinito, è lì che getta sangue, giura che ha finito di fare domande. Animali armati con in testa un fez arrestano chiunque ha troppo buon senso. Monsieur Voltaire ormai non ha più scampo, in piazza ti sta già aspettando un'auto da fè. In una tranquilla notte di regime, in una tranquilla notte di regime, in una tranquilla notte di regime. Shubi dubi, dubi du. Signora libertà stia sicura che le prende, io giudice censura ci metto la mia firma. Stanotte ha lapidato chi vuole fare sogni, Gandhi, Luther King, sarete fatti fuori. Chiuso nel suo studio il professor Marconi annota le sue di fianco a certi nomi. Ormai da qualche tempo riga troppo dritto, lo chiuderanno in cella sperando che stia zitto. Sperando che stia zitto. In una tranquilla notte di regime, in una tranquilla notte di regime, in una tranquilla notte di regime. Shubi dubi to dubi do ah. Case sorvegliate, la gente sta dormendo, ma in giro c'è un bambino che non riesce a prender sonno. Con la sua matita rossa scrive sui muri: il regime crollerà, statene sicuri. Con la sua matita rossa scrive sui muri: il regime crollerà, statene sicuri.